Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. È l'ultimo giovedì del mese di febbraio. Buonasera dal sottoscritto Agostino Spolore, a tenervi compagnia fino alle 22.30 con questo ennesimo live che Blu Radio Veneto vi offrirà anche questa sera. Siamo in buona compagnia, non c'è Maurizio perché è un po' in ritardo, poi lo prenderemo a schiaffi se arriva tantissimo in ritardo, ma comunque arriverà di sicuro, ci ha garantito. Dicevo, questa è Blu Radio Veneto, questa che state ascoltando sarà la diretta, tra virgolette, con un cantautore straordinario, ma lo presentiamo fra poco. Innanzitutto la parte, diciamo, tecnica della radio, cioè le nostre frequenze 88.700, 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Se ci volete raggiungere telefonicamente, vi ricordo lo 049 875 6423, e se invece volete mandare qualche messaggio di fare qualche complimento o qualcosa al nostro cantante in questione e ai musicisti, ovviamente c'è il nostro cellulare, il nostro numero di SMS, che è il 346 23 20 033. Abbiamo un sito dove potete tranquillamente vedere tutte le nostre notizie, i nostri live e varie informazioni inerenti alla radio e alla cronaca anche della zona del Veneto. Il sito è www.bluradioveneto.it e che dire, abbiamo anche Facebook, siamo anche lì, non poteva mancare ovviamente, ne abbiamo due. Una è semplicemente Blu Radio Veneto, dove potete trovare anche lì notizie inerenti sempre comunque alla cronaca e alla radio e agli avvenimenti sportivi anche. E poi abbiamo una filiale, chiamiamola così, che si chiama Blu Radio Veneto Rock Wave. Lì è spiegato ancora di più tutto quello che riguarda il live di ogni sera, ovviamente, che facciamo noi qui in studio, e specialmente la musica rock a cura appunto di Alberto Prisco. Questa sera, darmi una mano, ho chiamato una presenza femminile e io sono veramente molto, ma molto felice di averla qui, perché è una carissima amica, è una cara persona e poi soprattutto è una delle voci più belle delle radio di Padova. Troppo ciao. Buono. Ciao Fabiana. Ciao Agostino, buona serata anche agli amici di Blu Radio Veneto e vabbè. Avete già capito che voce? Senti che roba. Avete sentito già che voce? Allora, benvenuta Fabiana, grazie di aver accettato l'invito di venire a farmi compagnia. No, grazie a te, perché sei tu che hai accettato il nostro invito. È una gioia, sai, per me essere averti qui, insomma, è la prima volta che mi capita. Mi fa ingrassare. E comunque questa sera abbiamo, diciamo, ecco, un cantautore che ci arriva da Castelfranco Veneto, se non sbaglio, più o meno. Sì, sì. Si chiama Alessandro Novello. Oh, finalmente ci sono anch'io. Benvenuti, ciao a tutti. Come stai? Bene, dai. Come è andato? Tutto bene? Vi siete preparati bene? Viaggio un po' lungo, ma dai. Oh, sì. Vorrei ringraziare il centinaio di ragazze che ci hanno aspettato fuori dai cancelli. È sempre bello venire in radio, grazie a tutti. Ecco. Beh, insomma, la radio sai che è sempre un modo di comunicare in una maniera splendida. Sì. Sono le 21.04, oltre ad Alessandro Novello, in questo giovedì 24 febbraio 2011 abbiamo anche Re di Micheletto alla voce coro, voce chitarra, giusto? Sì, bene. Buonasera. E poi abbiamo Francesco Ricci, sempre la chitarra. Buonasera a tutti. Ciao, ciao, ciao, ciao Redi, ciao Francesco. Abbiamo anche i due produttori tuoi, vero Alessandro? Abbiamo Edoardo Pellizzari e Marco Mariuzza. Giusto? Sì, il contrario. Ah, ecco, vabbè. poi mi spiegate bene come funziona questa cosa. Allora, intanto, chi è Alessandro Novello? Bella domanda. Non ti hanno mandato la bio? Sì. So che hai girato tantissimo. Se me la passi te la leggi. Già, no, me lo devi dire tu. Spiegati chi sei, cosa fammi fai. Fammi qualche domanda, dai. Allora, intanto sei musicista, ovviamente. Sì, dai, mi diletto un po', suono la chitarra. Hai girato il mondo? Un po', dai, ho girato qualcosina. In questi 30 anni, 32, giusto? 26. 26? Eh sì. E che cosa fai? Dai, raccontaci un cosa po'. Tanto, dalla prima esperienza che hai fatto nel 2000 cos'è? Nel 1999 hai cominciato comunque a fare qualcosa di più, diciamo, sì, beh, io ho cominciato inizialmente con un gruppo rock, facciamo sempre roba originale, pezzi nostri. È durato 5 anni più o meno il nostro cammino rock. E poi ho deciso di intraprendere questa carriera, tra virgolette, da solista. Mi sono divertito inizialmente a scrivere qualche cosina in italiano, per poi metterci qualche giro di chitarra, e da lì è nato tutto. Poi ovviamente ho incontrato Reddy, che è qui accanto, e da là abbiamo cominciato un po' a suonare, a portare in giro un po' i pezzi. Hai creato un gruppo, se non sbaglio, di Insane Mood, giusto? Sì, Insane Mood 99. 99. Sì. Anche là, insomma, tutt'altro genere musicale, rock. Però rock abbastanza pesante, insomma. Però... Ma tutti i testi tuoi, musiche vostre? Sì, sì, o... musiche nostre. E i testi ce li scrivo io. Mi sono divertito parecchio. Ancora, insomma, mi piace ogni tanto trovarmi e suonare musica un po' più pesante. Certo, certo. Hai girato anche i locali così per suonare? Ti hanno certo. Partecipato a concorsi? Concorsi, abbiamo fatto qualche apertura, concerti un po' più grossi, solito, insomma, solita gavetta. Che si fa? Che si fa, che si fa tuttora, purtroppo. Com'è la situazione musicale in questo momento? Cioè, sei attento a fare queste domande ad Alessandro, perché? Secondo me è pericoloso. No, io lo voglio... Sai, a me piace, ti confesso Alessandro, più che altro la parte tecnica, a me piace scoprire veramente l'artista nel suo interno, cioè com'è la sua persona, la sua personalità e il suo modo di cantare, ovviamente. Cosa vuole trasmettere alla gente, insomma, più che sapere se suoni la chitarra o se suoni qualsiasi altro strumento. Io sono fatto così, insomma. Dimmi. Dai, che mi fanno le faccine dietro, mi fa un po' ridere. Qual è la domanda? Come, cos'è la musica per te? Com'è la situazione attuale della musica, insomma, secondo il tuo punto di vista? Vuoi che ci colleghiamo a Sanremo? Mi fai una critica? Ecco, un sì, commento? Tra l'altro ne abbiamo parlato un po' anche prima, distorgi un po'. Yeah. Per me è una grande delusione il discorso di Sanremo. Ci abbiamo provato anche noi a dicembre a mandare via un pezzo, che tra l'altro poi sentirete. Abbiamo lavorato parecchio per costruirlo, abbiamo costruito un video, anche fatto... un bel lavoro, poi purtroppo sappiamo un po' tutti che certi canali insomma sono sempre difficili da raggiungere. Ci vuole probabilmente per qualche conoscenza o qualcosa, poi alla fine passano sempre i soliti vecchi e vincono addirittura i soliti vecchi. Beh, ma ben venga, insomma, piuttosto di qualcuno di Amici o di X Factor, meglio un vecchione. Hai detto tu, io no. Non mi sono espresso. Fabiana, tu come hai conosciuto Alessandro? In un live, ad un contest proprio quest'estate, che tra l'altro l'ha visto anche vincitore nella categoria proprio dei solisti. Esatto. E niente, sono state due serate alla fine, perché in realtà erano tre, però ovviamente hanno passato i vari livelli e poi nella serata finale Alessandro ha vinto. Grande serata, ci siamo divertiti un sacco. Dove eravate? Se non sono a Castelfranco. A Castelfranco, sì. In casa. E c'erano anche i Motel Connection poi alla fine, quindi è stata anche una bella passerella. Eri tu che presentavi? Sì. Ah, ecco perché. Sì. Eri tu, c'eri tu. Sì, sì. E quindi ti ha colpito subito, insomma. Mi ha colpito Alessandro, sì, beh, si è distinto subito comunque tra i solisti, questo certo, sì, bisogna certo, dirlo. Certo. Poi ci hai portato bene tu. Mi ho portato fortuna, vero? Sì. Siamo ancora qui, vedi. Io direi di far ascoltare subito qualcosina di tuo Alessandro. Certo. Facciamo ascoltare qualcosa dal disco? Volentieri. Facciamo ascoltare la canzone che secondo il tuo punto di vista è quella trainante del disco, quella che apre il sì, disco. Sì, abbiamo puntato su un pezzo in particolare che è Stagioni, un pezzo rock pop, diciamo. E facciamolo ascoltare, poi magari la commentiamo più tardi se qualcosa vi colpisce, qualche parolina o qualche accordo. Ok, l'ascoltiamo. Non chiedermi che fine hanno fatto gli uomini e se cresceranno alberi neri in questa città che brucia. Non chiedermi perché scrivo il mare quando è l'unico modo per cancellare il vuoto. Dall'appuntamento con l'amore che tarda ad arrivare da questa società per degenerare. Oh no, ma non è stagione per andare al mare. Sai, sono leggeri i miei perché forse anche la luna si è nascosta di fronte a tanta indignità. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E rieccoci ancora in diretta qui con Agostino Spolaura a tenervi compagnia. Vi informo già che Maurizio è già arrivato, si sta sistemando, poi l'avremo anche lui qui a conoscere meglio Alessandro Novello. Intanto comunque c'ho sempre la Fabiana, che sinceramente fra Fabiana e Maurizio insomma decisamente tutta un'altra cosa, vero? Grazie. Fabiana? No, se non altro per la bellezza. Grazie, troppo buono. Per fortuna che i radio non ci si vede. Comunque. Sì, sì, sì. Sì abbiamo la Chiara che tra poco ti farà vedere. Mi abbasso. Sì. Dimenticavo, abbiamo anche lo streaming. Se ci volete ascoltare tramite internet, collegandovi nel sito della radio, cioè www.bluradiovaneto.it, nella home page c'è un rettangolino rosa con scritto streaming. Sotto c'è una freccia piccolina nera sulla sinistra, cliccando lì sentirete la radio 24 ore su 24, quindi anche il live in questo momento. Vi ricordo il nostro SMS 346 23 20 033 se ci volete mandare qualche messaggio, anche per fare qualche commento su Alessandro. Allora, questa era Stagione, Alessandro, una canzone, esatto, che anche apre il disco. Sì. È arrivato Maurizio, si sta sistemando. Sì, sì, apre il disco, un pezzo lavorato parecchio, l'abbiamo cambiato, fatto e strarifatto un sacco di volte finché abbiamo trovato la formula giusta, diciamo. E ne sono anche contento, insomma, è venuto fuori un bel pezzo. Ma è uscito anche un singolo? È uscito anche il singolo di questa canzone? No, non ancora. Solo l'EP, insomma. Solo l'EP. Diciamo il nome dell'EP che non abbiamo ancora detto. Come si chiama? Questa notte brucio. Questa notte brucio e tu bruci con me. Tu bruci con me. Ed è prodotto dalla Lemon Records. Esatto. Che è fatta da? Da Edoardo Mariuz e Marco Pellizzari. Ah, avevo sbagliato io prima. No. Ecco. No, non c'è Marco Mariuz, ecco. Edoardo Pellizzari. Un caro saluto poi lo do ad Edoardo, perché abbiamo parlato spessissimo in questi giorni. Ciao Edoardo, a proposito, poi ci sentiamo. Maurizio, ci sei? Ben arrivato? Sei sistemato? Sì, ci sono, mi senti? Sì, io ti sento. Se parli un pochino più veloce mi ti sento meglio. Si sente adesso, più sì. Vicino. Sai, ci sono il 6. Ok. Saluto quindi il parterre stasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Hai visto? Ti ho portato anche la Fabiana. Accademico ci vuole, e anch'io sono arrivato con il famoso quarto d'ora di Riccardo Accademico. E ci sta. E ci sta. E Dunque, volevo chiederti una cosa, Alessandro. A me interessa molto. Sembri un professore, mi fai paura. No, assolutamente, una cosa molto semplice. Con l'occhialino anche. Il tuo Inside Mood, quel gruppo che avevi. Inside Mood, sì. Esatto, musicalmente, musica rock, grunge. Sì, era... Che ha riscosso un buon successo dalle nostre parti, non solo dalle nostre parti. Certo, abbiamo fatto in 4 anni abbiamo fatto circa 120 concerti suonando un po' dappertutto, dai garage ai locali più dispersi della nostra provincia, e poi anche comunque abbiamo fatto qualcosina un po' anche fuori. Tu parlavi poi dal gruppo rock, precisamente. Sì, rock. Era un progetto rock grunge. Grazie, mi stanno porgendo la cuffia, sai. Perché siamo in tanti stasera. Siamo in tanti, sì, importante è questo. Sì, però si sente ancora il rock nei 5 pezzi che abbiamo sentito del tuo EP. Decisamente il rock c'è sempre. Se vuoi la verità, dimmi. Il vero rock è sparito. No, no, secondo me no. È rimasto qualcosa. È rimasto, c'è un pezzo che comincia con una bella chitarra elettrica. E quindi sì, ci sono dei pezzi che abbiamo tenuto un po' più pesanti a livello proprio sonoro, con delle chitarre un po' più grosse, e altri invece abbiamo preferito, insomma, abbassarle e quindi renderle un po' più pop. Ma la tua anima non l'hai dimenticata, il rock? No, assolutamente. Sei d'accordo? Come diceva lui, molte cose sono state tolte per renderlo un po' più... Più da cantautore. Più da cantautore, tra virgolette. Effettivamente, la scelta è stata giustissima. Un po' più pop anche, un po' più orecchiabile. Più pop, bisogna sacrificare qualcosa per arrivare, per cui... Certo, ma il pop non danneggia mai il rock no, c'è no, sempre, no, assolutamente. Sempre sospeso. Poi sì. I miei suoni li ho avuti grazie allo studio molto bene. Professionale, per cui sono contentissimo. Benissimo, bene. Ok. Agostino! Dimmi! Ti sento. Mi senti? Sì, perfetto. Sì. Dimmi tutto, Maurizio. Bene, è arrivato intanto, ciao. Grazie a te, ciao a tutti, abbiamo già salutato. Cantautore, sì, ma il cantautore, Alessandro, cantautore sì, però hai voglia di fare qualcosa oltre il cantautorato, nei 5 pezzi che ho sentito io, nelle EP che hai mandato qua. Ci sono delle sonorità non prettamente cantautorali, a mio parere, cosa dici? Diciamo che il... Facciamo parlare parola... anche la nostra collega. Sì. Esattamente. Diciamo che il discorso del cantautore è più un discorso di progetto solista, però rimane sempre un progetto comunque rock, che ha più quasi un gusto da band, di band. Ecco, quindi... hai detto cosa giusta, un gusto da band. Esatto, forse perché penso si sia creato tutto molto naturalmente. Io comunque sono sempre stato abituato a lavorare in gruppo, a costruire i pezzi in gruppo, cioè inizialmente partivano da una voce e una chitarra, però poi è bello costruirli insieme, per cui la sintonia che si raggiunge con un gruppo suonando insieme ad altre persone è completamente diverso rispetto al fatto di stare in stanzetta a suonare da solo. C'è una cosa importante, forse come tuo nome non mi ricordo mai. Fabiana, so, sicuramente anche Fabiana. Tu hai aperto i concerti di Verdena, Molteni, la luce della centrale elettrica, quindi sono cose molto importanti, soprattutto la luce della centrale elettrica, che è un musicista molto decisamente emergente. Esatto, sì. Negli ultimi tempi, anche Molteni lo stesso. Molteni. Sì, sono state occasioni che ovviamente ho preso al volo. Hai fatto con benissimo. Molto piacere, sono state bellissime serate. Sono stati tutti i live acustici che abbiamo proposto io e Redi, poi successivamente sono arrivati gli altri, Francesco e tutti gli altri musicisti che ci hanno collaborato. È stato un periodo live molto molto fertile, abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo girato un sacco, ci siamo divertiti tanto, diciamo. È una cosa importante, voi avete aperto anche i concerti di Verdena, adesso si parla subito moltissimo del disco doppio di Verdena, cosa dici, sì, Fabiana? Assolutamente sì, è uscito ed è subito entrato nei primi 3, quindi devo dire che è stato un bel boom. È un bel boom, dicono che loro Smashing Pumpkins disco, cioè il Melanie Collins praticamente, cosa dici, sei d'accordo? Sì, io ti dico, ho sentito poco ancora, però credo che sia bello sapere che un gruppo come Verdena subito, come è uscito il disco, è salito in classifica. Credo sia quello, comunque, quello a prescindere da tutto. Poi un doppio album, sì. Non è mica una cosa semplice fare un doppio album per un gruppo italiano. Infatti. È un po' difficile, decisamente difficile. Anche perché ci sono tutti quanti i grossi sopra. Esattamente. Mi sembra, complimenti. Poi ben venga la musica, comunque un po' più, certo, più rock, certo, rispetto alle canzonette che siamo abituati ultimamente a sentire un po' ovunque. Tu hai parlato di Sanremo, ne parliamo ancora dopo. Stiamo a sentire un pezzo, cosa dici? Sì, sì, te lo stavo per dire io, Maurizio, perché insomma voglio sentire il live, il suono, la voce di Alessandro Novello che ci presenta questo disco nuovo. E cosa ci fai ascoltare? Come primo pezzo mi ho deciso di fare Il vestito nero. Il vestito nero è un pezzo molto particolare, un pezzo nato in pochissimi minuti, e un pezzo a cui tengo particolarmente perché è nato molto velocemente e abbiamo trovato anche delle belle sonorità. Ce lo fai ascoltare? Certo. Vestito nero. Blu Radio Veneto. La donna vestita di nero ha scelto me. Parla di com'è difficile stare a guardare senza peccare. Wow, wow. L'uomo vestito di nero vuole me. Ha in mano una pistola e dice di voler provare ad amare, ad odiare così, così. Sono eroi che si spezzano, sono dei che non credono più. Come stare? Sono idee che confondono, come falsi che ti illudono per avere un po' di te. C'è un lieve sapore di miele, tradisce anche me. Al potere di gettarti nel vuoto più nero, un curioso deserto, un regno senza alcun re. Alcun re. Sono anime che si fondono come schiave di un esercito che ormai non ha più fame. Sono inverni che non muoiono come petali che si piegano in primavera ormai svelata. Falsi che ti illudono per Grazie. Prego. Bravissimo, bravissimo Alessandro. Un pezzo molto bello, molto aggressivo anche sinceramente. L'ho trovato un po'... Sì, dai. Un bel pezzo. Un bel pezzo, un bel pezzo. È quello che apre i concerti questo, no? Li apre e li chiude. Ci piace così tanto suonarla che la facciamo più volte. Ho visto che ti tenevi anche lo stomaco, no? Sì, è perché mi facevo un po' la cintura. Simpaticissimo. Allora, Fabiana, che mi racconti di loro te? Io li conosco poco, nel senso che poco. Li ho visti, li ho incontrati all'interno di questo contest e poi da lì, vabbè, ci si sente ogni tanto via Facebook. Poi ringrazio Dodi perché ovviamente mi ha girato subito il materiale non appena è uscito l'EP e da lì la voglia di proporli, ecco. Infatti, ho visto. Cosa ne pensi dell'EP? Sì, ho detto anche ad Odi che ci sono delle cose che mi piacciono molto, tipo questa. No, grazie. E devo dire comunque che rendete molto dal vivo. E grazie. Questo è bello. Chi sono i musicisti che sono nel live con te, oltre a loro due, insomma? Cioè, ci manca qualcuno? Ricordiamo Reddy Micheletto, Francesco Ricci, Steve Pozza. Al basso Steve Pozza, la batteria, batteristi, ne abbiamo provati un'infinità, almeno quattro. Li hai scattati tutti? Peccato sono scappati loro. Casomai ti do un nominativo se vuoi. Sì. No, tutti super musicisti, molto impegnati, che ci hanno dato moltissimo, molto tecnici, molto bravi. Ho imparato molto da loro. Prima il tempo, certo. Avevo un po' di difficoltà con il tempo. Giro con il click in tasca. Vi ricordo che questa è sempre Blu Radio Veneto e la voce di Agostino Spolaore. Questa sera, oltre a Maurizio, che è arrivato un po' il chino in ritardo, glielo perdoniamo. Abbiamo la Fabiana Contin, una delle voci di Padova. Delle voci di Padova più famose. Vi ricordo il nostro telefono di studio 049 875 6423, i nostri sms 346 23 20 033. Le frequenze 88700 94 e 600. La voce Agostino, Maurizio, Fabiana e soprattutto Alessandro. La sua nuova produzione, il suo Questa notte brucio e tu bruci me. Chi è che... Con me. Ah, con me, chiedo scusa. Chi è che ha scelto questo titolo? Il signore qui dietro? No. No, no. La frase fa parte di un pezzo. Ha scelto il grafico. Esatto. Il nostro caro grafico Roberto, che saluto, tra l'altro, che ha preso una frase che lui voleva, che secondo lui significava qualcosa, e ha trasformato questa frase in un servizio grafico bellissimo che ha fatto sul progetto Novello. Il servizio lo trovate anche su Facebook, su MySpace, tutta la grafica è stata curata molto bene e lo ringrazio. Questa era la voce di Edoardo, Dodi, meglio dire, che non è Dodi. Cosiddetto Dodi. Pellizzari, che è appunto è anche il fonico, se non sbaglio. Sì. Tu fai tutto praticamente. In pratica sì. Batterista. Anche batterista. Se vogliamo svelare un altarino, era anche batterista degli Insane Mood, di cui abbiamo tanto parlato prima. Perché era là che scalpitava. Era uno dei quattro che hai eliminato, scommetto. È il primo che ho eliminato. Poi me lo sono ritrovato. Brutta razza i batteristi. Fabiana, cosa dici di questo pezzo? È decisamente una bella versione rock, molto, molto potente. Sì, poi come dico sempre, loro sono veramente bravi dal vivo. Ha fatto bene Dodi a ricordare anche i contatti, perché c'è la possibilità di seguire anche Alessandro grazie a Facebook e MySpace. Li potete ascoltare i brani, potete anche sapere dove suona, perché continuano ovviamente a suonare. E insomma, mi sembra giusto ricordare. Vuoi ricordarli correttamente i tuoi contatti su Facebook? Certo, beh, c'è Alessandro Novello Official, Fan Club. Non me lo ricordo. Vabbè, Google, okay. Alessandro Novello, cercate su Google, ecco. Qualcosa viene fuori. Poi c'è il MySpace, ovviamente, Alessandro Novello. Poi c'ho anche la mia mail privata, perché volesse scrivermi, contattarmi, possiamo uscire a bere qualcosa. Fai anche il vino, mi sembra, no? Certo, sì, a novembre faccio la festa. A me è piaciuto molto il pezzo che hai fatto te, cioè la collaborazione solista che hai fatto al brano. Me la puoi fare un secondo? quel giro che hai fatto. La solo, alla chitarra. La parte centrale che hai fatto, quella colorazione solista, hai dato una certa impronta. L'improvvisazione. Esattamente, l'improvvisazione, l'improvvisazione, è proprio quella. Perfetto, cosa dici Fabiana? L'improvvisazione è essenziale nei live. Era in playback. Era in playback. È stato bravissimo. In realtà non è lui che suona. L'hai colorata, secondo me, non so se sei d'accordo Fabiana, anche te, un po' di blues, l'hai colorata. Sì. Un po' la mia vecchia scuola, derivo da lì. Derivi dal blues. Ah, sì, poi ho fatto... La musica italiana non è blues. No. E se vuoi farla, sai... imparare anche. Un po' difficile suonare blues però adesso in giro non trovi no, cosa dici? No, non lo suono infatti. Esattamente, in giro, a parte gruppi problematico cover, È problematico suonare blues non è in Italia, il blues no. Trova grande difficoltà, però è una buona scuola. Penso che il blues comunque è sempre dentro di un musicista, certo. un vero musicista rock ha sempre un po' un'anima blues che lo ha spinto un po', sì. Esattamente. Anche Alessandro ha un'anima blues, certo, nonostante c'è un cane che si chiama blues. Esattamente. Che saluto, mi starà ascoltando. Esatto. Gli ho dato io il nome suo. Ascoltiamo ancora qualcosa, Maurizio, che dici? Sì, direi proprio di sì. Noi siamo qui per sentire il live. Cosa ci fai ascoltare adesso? Ora facciamo un pezzo, si chiama Non è facile. Quello dopo? Volete farne un altro? Ok, cambiamo. Eri tu un pezzo abbastanza violento. Bene. Quindi vedo Agostino che salta sulla sedia, no. Voglia di violenza. Musicale, sempre musicale. Allora ci fai ascoltare Eri tu? Certo. Sì. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Mi nascondevo bene al fine di evitare che ancora tu potessi raccontare le mie vene e godere delle mie fantasie, dei miei tragici momenti isterici che ti illudevi fossero per te. Sotto cumuli e macerie di carta straccia sostenevi ci fosse la mia piccola malattia, alla quale non serviva ormai anestetico nei condimenti o zuccheri vari. Eri tu, eri tu, eri tu che dicevi che per essere vero bisogna aspettare, e che questo mondo di merda cambierà. Eri tu che dicevi che per essere vero bisogna saper perdere, e che questo mondo un giorno ti verrà lieve. Eri tu che mi succhiavi anche le viscere e non pensavi mai a niente. Eri tu che non ti rendevi conto o fingevi di sapere che al di là di tutto facevi parte anche tu di questo caos d'anime e di questo futile tempo che passa, di questa enorme solitudine, di questa cenere. Eri tu, eri tu, per essere vero bisogna saper scegliere. E che questo mondo un giorno cambierà. Guardi tu che dicevi che per essere vero bisogna saper perdere. E che questo mondo un giorno forse diverrà lieve. Eri tu. Eri tu che dicevi che per essere vero bisogna saper perdere. Finisce proprio così? A volte. Solo in radio. Bellissima, aggressiva, come dicevi prima. Bella, bella. Mi è piaciuta questa qua. Sì. Hai molta grinta comunque, Alessandro. Trovo in te che ci sia... Sono arrabbiato. Arrabbiato. Senti, io volevo chiederti una cosa. Mi ha colpito moltissimo una frase che tu hai scritto in una tua biografia che ho trovato. E dici, scrivo per sentirmi vivo, per realizzare utopie, per colmare quel senso di vuoto che spesso mi assale, derivante da dentro e da fuori. Canto per vomitare sensazioni, immagini e colori. E non importa se oggi è difficile e pesante, un giorno capiranno. A chi ti vuoi rivolgere così... È un male dentro costante. Forse tutto deriva dal fatto che lavoro da anni nel sociale, ho sempre lavorato nel sociale, quindi ne ho viste un po' di tutti i colori, tuttora ne vedo, per cui tante cose mi fanno rabbia e trovo un grande sfogo il fatto di scrivere e comporre pezzi più o meno ascoltati o comunque di valore. Per me hanno sempre un significato molto, molto importante e quindi mi aiuta tantissimo, soprattutto anche ad essere me stesso, cose che non riesco a dire o magari anche a fare. Trovo la libertà in un foglio e attraverso una penna riesco a liberarmi. Certo. Scrivi anche dei testi, libri? Diciamo che ne ho scritto uno, sono arrivato a 150 pagine e poi è lì ancora. Devo ancora capire la fine, però prima o dopo lo finisco. Ho scritto altre cosine, però insomma. Certo. Parlando di questo pezzo che abbiamo sentito qualche secondo fa, era molto interessante il stop and go che avete fatto, vi siete fermati e siete ripartiti, era molto interessante. Un'idea fatta per il live nostro o un'idea che portate anche fuori? Non vorrei mica risentire anche questo. No, voglio risentire questo, però è l'idea importante. È un'idea che nasce come un'improvvisazione, come qualcosa che viene così al momento. Poi quello che viene di bello nella sala prove viene portato anche in live, viene ripreso, a volte viene preso e rilasciato, insomma... Non sono è tutto idee. Così fisso, però per vedere, per capire se funziona, è giusta la reazione della gente quando dice... Bello il pezzo, certo. Allora abbiamo capito che lo faremo sempre ora. No, è importante, secondo me è fondamentale. Stiamo facendo un gran lavoro in prova, ci troviamo tantissimo, proviamo tutto ciò che ci viene, tutto ciò che ci passa per la testa o per le mani, e quindi i risultati prima o dopo arrivano. E tu, come giustamente hai detto a Fabiana prima, tu sei un uomo dal palcoscenico, dal live, cioè dal palco, e si sente anche qua in versione acustica sì, ma un'acustica molto pompata nel senso positivo del termine. Cosa dici, Fabiana? Beh, è un peccato, magari qualcuno riesce a vederlo, però vederlo anche qui, che siamo noi, alla fine lui comunque canta come se avesse davanti un pubblico. Beh, anche noi siamo pubblico, certo. Quindi, assolutamente sì, assolutamente. Però non si risparmia. Certo, dire. Certo. È il pubblico più attento, spesso nei locali c'è un vociare tremendo che ti porta via... E invece qui c'è gente che ascolta e quindi è un piacere. E possiamo farti gli applausi anche, se non ti commuovi. Esatto. E poi una cosa positiva secondo me, che nonostante la rabbia c'è sempre un gusto melodico nei pezzi tuoi, cioè la melodia c'è, si incastra bene, però esiste, e questo è positivo. Il cantautore deve avere sì la rabbia, però deve avere anche la melodia, se no non è secondo me cantautore al 100%. Beh certo, altrimenti non riuscirei ad accompagnarvi. Sì, diciamo che la melodia, spesso io trovo delle melodie molto semplici per cercare di lavorare di più con le linee vocali, anche perché comunque non ho queste grandi abilità chitarristiche, per cui quello che faccio è molto semplice. Poi ho la fortuna, poi ho la fortuna appunto di lavorare con delle persone molto dotate che ne sanno fare, insomma. Ecco, vorrei chiederti una cosa. Il pezzo lo scrivi in una certa maniera e poi come lo sviluppi attraverso i tuoi due colleghi che ti seguono? Beh, guarda, ci sono pezzi che nascono dall'inizio alla fine dritti, praticamente parlo del testo, altri che magari nascono a strofe praticamente, non ho mai capito perché certi pezzi nascono tutti interi e certi nel giro di 2 settimane. E poi ovviamente con la musica, i giri di chitarra, la batteria magari ti può cambiare totalmente il pezzo. Noi abbiamo avuto un modo insomma di accorgerci di questa cosa, che certi pezzi che abbiamo registrato nell'EP prima erano stati fatti in modo totalmente diverso. E poi ovviamente con la capacità di ognuno siamo riusciti a modellarlo. Certamente, chiaramente. Cimento. Agostino, cosa dici? Facciamo sentire un pezzo dell'LP e adesso un pezzo da disco? Cosa dici? Pure? Come se facciamo ascoltare la canzone, quella che io amo tantissimo. Bene. Che si chiama Non piove. Ok. Ecco, Non piove, appunto, riallaggiandosi al discorso di prima di Sanremo, che tra l'altro mi assomiglia un sacco a Vecchioni. Sei uguale. Beh, perché? Sei lì come tale, dai. Sei anche lì come età. Ma è detto... No, lui Alessandro ritornato. Io adesso mi chiusa. Sì, stavo te di no, te. No. Ritornando a Sanremo un secondo, poi lo chiedo anche a Fabiana: cosa ne pensi di un pezzo bellissimo, secondo me, come quello di La Cruz di Giovanardi? Quello è un pezzo bellissimo. Guarda, musicalmente, anche come testo. Molto se bello. Vuoi la verità, dimmi. Non sei d'accordo? No, io l'ho seguito molto poco. Forse per qualcosa che mi ha portato un po' fuori, per il fatto che avendoci provato a mandare un pezzo dove, ripeto, abbiamo lavorato tantissimo, un pezzo secondo me giusto per la situazione, io non dico, però un minimo di attenzione in più per gli emergenti, senza sì. Anche proprio a livello proprio di sito, di voce, proprio di Sanremo, io non dico andare in trasmissione, però insomma arrivare a fare qualcosa secondo me c'era il pezzo. Quindi mi ha portato ad allontanarmi un po' dall'ascolto, dei brani, capito. Se non alla fine, per curiosità, vorrei vedere chi vinceva. Poi, probabilmente era meglio all'inizio, quando ancora c'era la... Yeah. La tipa bravissima, un pezzo bellissimo, Bastardo. La Tatangelo, la Tatangelo. Come doveva vincere lei? Mettiamo sul pezzo, è meglio adesso. Andiamo sul pezzo. Allora, dall'EP di Alessandro Novello, che se non sbaglio dove ho trovato, ho messo il titolo adesso che mi scappa, Questa notte brucia e tu bruci con me, giusto? Esatto. Ci ascoltiamo la traccia numero 2, si intitola Non piove. Dimenticando com'è bello averti qui, anche senza una parola, anche quando il vento spezza l'armonia, il respiro si gela e fuori è blu. Fuori è blu. La la la la la la la. Guardare su, oh, dipendi da una sorta di complicità tra il vero e il superficiale, tra il dire e il fare, un pensiero un po' sterile, una vita un po' fragile, che è qualcosa da. Ho imparato a convincermi che il cuore arido sarà e non c'è niente di strano perché da tempo ormai non piove. A prendermi con le mani che san di rosa, è un aroma che mi scioglie e mi porta da te, dimenticando il Veneto come non l'hai mai sentito. Blu Radio, SMS 346 23 20 033. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, l'ho volutamente non detto prima, perché avevamo problemi di connessione con le webcam. Adesso invece ti vedono, Alessandro, quindi le tue fans, le donne, yeah, possono vedere il tuo aspetto. Insomma, io non commento. Fabiana, è bello Alessandro. Ah, sono tutti e tre belli. Ah sì, eh. Benissimo. Allora, per chi hai detto quattro. Per chi volesse vederli in streaming video, basta collegarsi con direttarockwave.tk oppure andare nella recensione nostra della radio su Alessandro Novello e cliccando appunto su dove c'è scritto diretta streaming video, lì potete entrare direttamente e vedete Alessandro e i suoi compagni di merende. Certo. Gli sta manovrando tutti la chiara, dobbiamo ringraziarli, la sta manovrando la webcam, si chiama adesso. Devo ringraziare un momento il nostro direttore artistico, certo, Alberto Prisco, che senza di lui questi live non si fanno. E ringraziamo anche la Nicoletta che ci segue sempre, una nostra fan. E ricordiamo, per chi ama la musica rock, Alberto Prisco seguirà questo live dalle 22.30 fino alle 24 con la classifica e le sue novità per quanto riguarda, appunto, ripeto, la musica rock. Allora, questo pezzo, che ha un inizio al pianoforte molto bello, dobbiamo sottolineare questo inizio al piano, che dà un certo tocco, un certo senso al pezzo. Chi lo suona al piano, Alessandro? Il pezzo l'ha suonato Loris Sovernigo, che è un ospite dell'EP praticamente. È un ospite dell'EP, comunque è un musicista che mi ha sempre seguito da un paio d'anni che mi segue, abbiamo fatto qualche live assieme e comunque mi ha aiutato ad arrangiare qualche pezzo. La verità è che questo pezzo è nato, il giro di piano è un giro di chitarra che ho fatto io, me ne vanto. Bene. E poi lui l'ha riprodotto magistralmente al piano, c'ha le mani fattate. Infatti questa canzone in live la fa da solo con la chitarra. Ah, vedi, vedi, un momento intimista. Cosa dici, intima, Fabiana? È un momento intimista dei cinque del hippie, praticamente. Eh sì, beh, complimenti. Io lo sto scoprendo insieme a voi, in realtà, perché ho ascoltato alcune tracce e... perché dico sempre che è più bello sentire le cose dal vivo. Certamente, certamente. Ho sentito il singolo, giustamente, che mi è stato girato dal buon Dodi, però adesso apprezzo molto anche ascoltare ovviamente le altre tracce. E invito anche gli amici che ci seguono poi a cercare Alessandro su Facebook piuttosto che su MySpace, così hanno la possibilità poi di ascoltare. Certo. Anche perché ultimamente MySpace lascia un po' a desiderare. In effetti. È stato un po' abbandonato dai musicisti. A parte me. L'abbandono, Fabiana, ma proprio è proprio complicato, cioè fai fatica a navigarci. Dentro. Ma è giusto che sia così, secondo me, nel senso che è proprio, è nato con lo scopo di dare spazio soprattutto agli artisti, quindi una volta che è stato popolato da un po' tutti, credo sia giusto che sia diventato un po' più serio. Ma anche i musicisti scappano, però. Dici? Sì, qualcuno non lo so. Sì. Avrebbero dovuto fare la chat, secondo me. E l'hanno fatta. No, c'è la chat. Cioè, adesso c'è anche prima di vedi Facebook, che sei abbandonato. No, io non sono un tanto internauta. No, ho per un comunque, fattore di pubblicità, certo, musicale. Ma... è giusto anche questo. L'hanno fatta. Comunque, secondo me, è proprio l'impostazione che è stata data che è un po' diversa. Ma credo sia corretto anche questo, insomma. Non so, io ti dico, sono lo trovi difficile? Sì, io sono tre anni che sono dentro, due o tre anni che ho il mio profilo, sì. Io l'ho fatto per la musica, sì, cioè, sì. E lì ho conosciuto tanti artisti, certo. Tanti che tra l'altro sono venuti anche qui a suonare dal vivo. Adesso lo trovo veramente difficoltoso anche inviare una mail per un messaggio per chiedere qualcosa contatto, a qualche musicista, certo. Sì, sì, veramente fa fatica, non so, cosa. Peccato. È un peccato, sì. Secondo me è un peccato, perché è molto più... Ma poi ci sei anche tu, oltretutto, siamo in comunità io e te. Sì, sì. Forse il padrone di MySpace si è fatto il Facebook, no? Sì, sì, probabile, sì. Probabile che il sia famoso stato Tom, anche no? Ti ricordi la storia di Tom? Tom is not my friend, c'era le magliette che ho scritto Tom is not my friend, perché era il primo Tom amico obbligatorio, primo, sì, di tutti quanti che coloro si facevano in MySpace, allora c'era la gente che andava via con la maglietta Tom is not my friend. È vero. Quindi questo pezzo lo fai nel live, lo fai acustico da solo con la chitarra praticamente? Sì, sì, diciamo... lui dice di sì. Sì, confermo io. Confermo. Di solito lo faccio da solo, però dipende, è un pezzo molto particolare, dipende, sì, dalla situazione. È intimista, decisamente intimista. A volte preferisco non farlo, lo mettiamo in scaletta, però poi all'ultimo decido di non farlo, come l'ultimo concerto ho fatto venerdì, ho preferito non farlo perché... Dipende anche dall'ambiente del concerto. C'era più una situazione di festa, c'era gente che aveva voglia di sentire... pezzi diversi probabilmente, quindi avrebbe tagliato in due la scaletta e quindi avrebbe fatto scendere un po' l'audience. Ho capito, però è positivo secondo me perché giustamente rallenta un momento tra le cinque tracce, questo rallenta un momento, non nel senso negativo, in un senso di un po' di un momento di riflessione, sì, poi esatto. Si riprende e si riparte. Sì. A me l'ho sentita così nei cinque pezzi che, abbiamo ascoltato noi della redazione di Blu Radio Sera, abbiamo dato questa impronta praticamente. Io lo trovo un pezzo molto interessante. So se esistono ancora i singoli potenziali, anche questo poteva essere un singolo potenziale. Cosa dici, Alessandro? Non so, c'è il produttore qua da qualche parte, probabilmente. Non so se sei d'accordo in questa mia affermazione. Questo, infatti, sarà il prossimo singolo. Ecco, che vedi. Allora ti ho azzeccato. Ti ho azzeccato di brutto. È bello, molto. Cioè, non è trascinante, però porta a pensare, quando pensare secondo me fa bene in certe cose e anche fa bene a sentire, quindi c'è una comunanza di intenti a mio parere. Certo, poi è un pezzo, a me capita una cosa molto strana facendo dei pezzi da solo, tipo Non piove, mi capita proprio di emozionarmi, quindi ecco, a volte mi capita proprio di sbagliarli dal vivo perché sono troppo concentrato in quello che sto facendo, per cui mi distraggo da solo tra i miei pensieri e tra le mie parole. Ma lo fa anche Bob Dylan, non ti preoccupare, quindi. Ah sì? Ho spesso vi interrompo perché è arrivato un messaggio per te, anzi due, intanto te ne leggo uno. Alessandro dice: dalla radio esce questa bella voce calda e graffiante, quasi come tu fossi proprio qui a cantare nella stanza accanto. Eri tu? Firmato Blues. È il tuo cane, ti ha scritto. Devi rispondere con qualche bau, non lo so. Ti leggo anche l'altro, già che ci sono. Allora, dice: finalmente un po' di sano rock originale e spontaneo. Vai Stamper, vai Affi. Ah. Ciao Reddy. Ah, ok. ho capito. Ti saluto. Grazie Afi, ti saluto. Ricordiamo per chi volesse mandare qualche sms, vi ricordo il nostro numero, allora è 346 23 20 0 33 e potete tranquillamente, come dire, mandare quello che pensate su Alessandro Novello, sul suo disco e su quello che fa in generale. Maurizio, nella tua biografia ho letto che hai fatto un EP, non so se l'avete citato precedentemente, fatto, costruito da te, Facilmente Impressionabile, nel 2007. Che differenza c'è tra questo disco ufficiale e quel disco da cantina, possiamo dire, da garage, tuo personale? C'è una differenza di arrangiamenti, di costruzione? Proprio di arrangiamenti. Diciamo che l'ultimo c'è stato un gran lavoro di costruzione nella struttura del pezzo, al di là dei suoni, la ricerca dei suoni. Prima erano nate 10 canzoni e avevo chiamato degli amici, un batterista e un bassista, che tra l'altro saluto, loro sanno chi sono. Certo. E siamo entrati in studio e l'abbiamo registrato in... Di botta, di getto. Di botta, sì, così. Sono dei pezzi molto importanti perché sono proprio l'inizio del mio piccolo viaggio da solista, per cui per me hanno un significato molto, molto grande. Poi sentire dei pezzi ben costruiti e ben lavorati come lo sono adesso è una soddisfazione sicuramente in più. Ho capito. Beh, era importante però il disco del 2007, l'inizio. Certo, quello è stato proprio l'inizio, mi ha dato modo di uscire. Certo, tantissimo. Certo. Abbiamo fatto concerti a Milano, a Parma, a Trento, abbiamo girato un sacco, partivamo io e Reddy con la macchina carica e andavamo a dormire nelle case degli altri praticamente con i gatti che... cosa dici Fabiana, una cosa positiva questa? No? Sì, beh, credo sia un po' la vita di tutti questi musicisti, no? E quindi certo, è sì. Bello conoscere. Poi sia modo proprio di conoscersi, sì. Di avere proprio un rapporto anche con le persone... È bellissimo, infatti il live per me è una cosa molto importante, al di là del disco io farei solo live, perché il disco ho proprio un problema di studio, cioè io ho proprio voglia di suonarle, non stare davanti a un microfono, trovo una freddezza enorme, quindi il momento del live è la parte più importante, la realizzazione più importante di ciò che faccio, insomma. Ti senti te stesso, insomma, con un live? Eh? Non mi vedi perché sono al buio. No, è buio adesso, è buio. Per quello. Dicevo Alessandro. Sì, nel live proprio mi sento me stesso, mi sento libero. Spesso mi capita di non rendermi conto di avere anche della gente davanti che, certo. Che ascolta, quindi faccio... Ma siete tutti uguali voi musicisti, perché ogni artista che è passato da questa emittente, almeno quello che abbiamo sentito noi, abbiamo chiesto, dice che proprio nel momento che è dal vivo su un palco e canta, lui si estranea, cioè lui vive le sue canzoni e non, cioè, è fuori dal mondo, nel senso che è dentro la canzone, ma quello che ci sta attorno non lo vede. Sì, a me capita tantissime volte, poi magari mi distrae la cameriera. Vabbè, vuol dire che qua passano o la presentatrice magari. Però magari è anche un modo per vincere la tensione di avere la gente. Certo. Ti trovi 100.000 persone davanti, magari so. Ci pensi un attimo, certo, di più. Certo. Diciamo che il live è la mia droga, cioè, proprio mi porta altrove, quindi è proprio la situazione più bella. Spesso mi ritrovo a finire il live e a non trovarmi più nel locale, non aver più voglia neanche di stare là. Io mi ricordo una sera, recentemente, quest'estate, sono andato a vedere un concerto dei Movie Trio, forse Fabiana li conosce, e sono andato a salutare Alessandro, che è un chitarrista, e lui diceva: Agostino, aspetta ancora un pochino perché guarda, sono ancora preso dal concerto. Era ancora dentro questa atmosfera così particolare, a parte che la loro musica è comunque particolare, la tromba, la chitarra, la voce, insomma, è un trio eccezionale. Però diceva appunto: lasciami qualche tempo ancora che mi riprendo, poi parliamo più serenamente. Certo, poi la mia ossessione più grande è quella del fatto proprio di capire da fuori cosa si sentiva, quindi spesso mi trovo a chiedere, certo, a tutti com'era, cosa hai sentito, cioè proprio la curiosità. Un giorno mi piacerebbe essere fuori ad ascoltarmi e a vedermi, però non avrò ti sdoppi, mai... ti cloni. Spesso ultimamente stiamo registrando i live e abbiamo modo di ascoltarci, però non ho il coraggio proprio di stare a scaricare il concerto, perché me lo sono gustato là e non me ne frega niente se sono stati errori o altro. Mi è piaciuto essere là, averlo fatto e basta. Poi si vede anche che i grandi big steccano da paura, per cui non ho la paura, non ho il bisogno di sentire dove poter migliorare, perché penso che l'errore sia dovuto da un'emozione distorta che magari ha portato a cambiare o comunque a sbagliare delle cose. Anche perché credo che se fai qualche errore diventi più umano, no? Che non un extraterrestre che è tutto perfetto. Certo. E sì, quindi... poi... cioè, diciamo che le doti vocali che mi ritrovo, diciamo, io sono totalmente un autodidatta, per cui non posso raggiungere o pretendere chissà cosa. Mi piace sentire la musica e buttarla fuori per quello che so fare. Poi sono sicuro che se si cominciasse più a studiare la musica, qualcosa verrebbe meno. Ti fai ascoltare qualcosa, Maurizio, devi chiedere qualcosina? No, ci fai ascoltare, Alessandro. Live è fondamentale, come hai detto Alessandro, e noi dobbiamo far sentire la gente come sa cantare, sa proporsi. Alessandro, cosa ci fai ascoltare? Il prossimo pezzo è non è facile, è un pezzo molto intimista, è un pezzo che abbiamo lavorato tantissimo ultimamente. Prima era stato registrato solo chitarra e voce, buona la prima, invece ora abbiamo fatto un lavoro un po' più importante e l'ha reso più prezioso. Ci intitola? Non è facile. Ho perso la curiosità di capire il giusto e il vero di questa falsità, e non mi do pace nel vedere che la pioggia va. Ho visto te ondeggiare e raccogliermi nel mio mare di sangue, dove il verde non c'è e la luce che sorge è sintetica. E questa vita cos'è se non un fiume di vino senza calice? E questo mare dov'è? Le acque si scontrano e poi muoiono, si ubriacano. Ho perso la serenità per liberare la mente, poi dipingere. E non mi capacito nel sentire che la pioggia va. E realizzo che le circostanze mi impongono di arrendermi, dove l'alba non c'è e la luce si sfuma dietro a nuvole. E questa vita cos'è se non un lieve sorriso senza sguardi? E questo sogno dov'è? Ali che si confondono e pochi volano. E non è facile costruirsi un sé per poi soffocare dentro a maschere. Non è facile costruirsi un sé per poi soffocare dentro a maschere. No, e non è facile, e non è facile. fragile. No, no, no. Facile, no, no, non è facile costruirsi in sé per poi soffocare tutto. Grazie. È un'emozione sfociata istintivamente, tu la definisci così, Alessandro. Non è facile. Non è facile, è un'emozione anche questa. Questo è un pezzo, uno dei pezzi che dicevo prima, nati in pochi attimi, è stato uno sfogo importante e mi piace ogni volta che la facciamo, me la sento proprio. Tu le interpreti proprio, le senti proprio, proprio come figlie tue, proprio una cosa molto interna, molto intima le canzoni. Sì, come si vede da come le canti. È proprio un viaggio interiore che faccio ogni volta e poi... Il bello della canzone, non solo penso per chi scrive, proprio il fatto che ogni volta che la si propone ha un senso completamente diverso, quindi ci si aggancia alle situazioni di ogni giorno, a quello che ci succede, per cui è sempre una canzone nuova, nonostante suoni sempre allo stesso modo. Questo è il risultato di chi ci mette l'anima nella musica. Siete grandi. Un caloroso saluto a Francesca. Tutti per te, Francesca. E questo sei tu, mi sembra di conoscerla. Grazie, ti voglio bene. Ecco, abbiamo già capito tutto. Maurizio, sì, hai perso la voce. E la Fabiana non la sento. Sì, io sto tentando di no, farla parlare. No, io mi permetto di dire solamente una cosa. E parlo per Alessandro, parlo per i giovani che sentiamo e che proponete anche voi. Questa è una gran cosa. Sono realmente più bravi a cantare in una situazione come questa, che è difficile, di un big. Davvero? Sono pienamente d'accordo, Fabiana. Io questo... ne ho sentiti parecchi in situazioni come queste, quindi radiofoniche, magari non facili, e siete molto più bravi. Grazie. Complimenti. Grazie. A voi. Grazie. Ti posso complimento. Ti posso garantire che spessissimo abbiamo trovato artisti sì. che veramente immagino. Sono molto bravi rispetto, molto più bravi rispetto ai big. Sì. Forse perché noi non abbiamo paura di sbagliare, non abbiamo nulla da perdere, abbiamo forse solo perché siete da... genuini ancora. Brava, siamo bravissima. Genuini, quindi abbiamo voglia di ascoltarci anche noi e di fare quello che ci sentiamo. È proprio perché ci mettete l'anima dentro, esatto. Il cuore soprattutto. E poi di questo pezzo, tanto importante, ti sei alzato in piedi, hai dato proprio vigore al pezzo, hai dato una spinta, e poi la bellezza del pezzo e degli altri pezzi che sentiamo adesso è che loro due, i tuoi validissimi collaboratori, lo colorano in una certa maniera, lasciandoti la voce poi come perno importante. E questo è fondamentale, come ha detto giustamente la Fabiana, l'interpretazione, il pathos che hai dato, è al di fuori di tutte le idee che si possono dire, si possono portare. E la forza, l'istintività, la voglia di suonare e di cantare, di trasmettere un messaggio, e live è proprio questo. In questa dimensione è più larga ancora, perché la dimensione acustica è molto più difficile della dimensione sul palco, vero e proprio. Grazie. Allora, visto che sei caldo, ce ne fai un'altra. Sono le 22:10, altrimenti ci sentiamo poco. Certo. Cosa ci fai ascoltare adesso? Io voglio sfruttare il fatto che sei qui, quindi se mi consenti. Facciamo poesia. Poesia è un pezzo, uno dei primi pezzi che avevo scritto, che ho scritto. E... l'abbiamo lasciato abbastanza... naturale, non l'abbiamo modificato tantissimo, è un pezzo che ci ha dato sempre una bella spinta, una bella emozione. Parlo di emozione sempre perché costantemente ho un batticuore ogni volta che si parla di musica, che si parla di... È bello sentire queste parole. Che facciamo, quindi poesia. E colori fiori vanno, tu ci salivi su, e guardavi me da lassù. Ho provato ad ignorare che la voce non andava più su. Quando il sole saliva lento, tu ti tuffavi nel blu. Raccontami un'altra poesia e dimmi di un'altra sana malattia e legami le mani e dimmi che il tuo intimo non reggerà. Permettimi di dare fuoco a me per illuminare te. Lasciati sfiorare. C'è qualcosa di particolare, di banale, ma fermiamoci ancora qui, ancora qui. E scrivimi un'altra lirica e ingannami come sai fare bene tu, e poi spezzami. Oh sì, ti ammirerò mentre lo fai, cercherò se ti perderai. Ti cercherò se ti perderai. E poi spezzami. Oh sì, ti ammirerò mentre lo fai, ti cercherò se ti perderai. Eccoci qua, posso dirti una cosa Alessandro, quanti chili di sudore perdi ad ogni pezzo? Questo non hai abbastanza. Hai perso tantissimo in questo pezzo, perché hai dato una grinta, una forza spaventosa. Era un pezzo romantico, intimista, ma l'intimismo qua, la tua voce era graffiante, catturava, proprio lo catturava. Il fatto di chiedere a qualcuno di raccontarti una poesia, il fatto della poesia è qualcosa di bello, qualcosa di sé, che spesso... ultimamente le persone non hanno più niente da dire, non hanno più voglia di aprirsi, di raccontare, di tirar fuori il lato poetico di sé, e quindi è questa la rabbia che mi spinge poi a cantarla in modo un po' più aggressivo, quando magari potrebbe essere un pezzo molto più tranquillo. Certo, non c'entra niente con te, però mi viene in mente una cosa della rabbia, Fabiana. I vecchi pezzi di Cocciante, ti ricordi? La rabbia di Cocciante. Sì. Anche lui ha scritto poesia, era un po' diversa dalla tua, sì, decisamente. Però la rabbia che aveva Cocciante all'epoca, è vero, che cantava dei pezzi con un testo molto particolare. Come in Alessandro, sì, dall'espressione vocale. Esattamente. Non solo. Sì, è vero. Dava. Poi ti alzi in piedi, poi dai una spinta proprio qua allo stomaco e via. Dai. E tu hai, ripeto, i tuoi colleghi ti danno una mano facendo un discorso musicale, ma e sei te che spingi tutto quanto, almeno questo pezzo sicuramente, io l'ho sentito così, in questo momento a Blu Radio Veneto alle 10:20, in perfetta sintonia, in diretta, assolutamente live. Il live è importante, live fondamentale. Il live è la nostra, è la cosa che ci porta avanti. Senza il live non si potrebbe più fare niente. Tanti dischi ormai non li compri più. Non si vendono più, non si vendono più, si vendono pochi. In macchina non si ascolta più niente perché si ha il cellulare. A proposito di Sanremo, tu sei stato nel 2007 a semifinalista a Sanremo Rock. Che esperienza hai avuto? E poi a semifinalista a Italia Wave del 2008. Cosa vuol dire essere semifinalista in quei due concorsi? Non vuol dire niente. Non vuol dire assolutamente nulla. Il concorso è un modo per suonare, non si va mai a fare un concorso per vincere. Mm. Sappiamo un po' tutti, insomma, come si fa a vincere un concorso. E quindi... La Fabiana, sei d'accordo, Fabiana? A parte quello. Però sì, il discorso del contest è sempre una cosa che si fa all'inizio. È importante fare il contest in ogni caso. Beh, la Fabiana ti ha conosciuta col contest, chiaramente. Ho perso... Hai perso il conto, quanti ne hai fatti? Sì, no, ho perso il conto... tra il gruppo prima e tra gli emergenza live e tutte quelle storie là. L'Arezzo Wave è stata una bella esperienza perché in Veneto ci sono circa 200 band che mandano il disco, ed essere stato selezionato tra i 10-15 che erano è stata una soddisfazione enorme. Certo. Poi suonare al Banale, che ora qua che parlo, era un locale non c'è storico più, del rock, è sempre stato uno dei locali più belli dove poter andare a suonare. Allora mi ricordo che potevo suonare solo facendo un contest. Poi c'è stata la fortuna di poter aprire a Molteni. Quindi, grande musicista Molteni. È stato... Che sai che è un pompiere, no? Sì, sì, ecco, sì. Ecco, perfetto. Quindi... La sua attività è il pompiere, però si diverte a suonare. Adesso non so se faccia ancora il pompiere, però... Però ha lasciato, purtroppo ha lasciato... Non esiste più come Molteni, adesso ha fatto un gruppo e dovrebbe uscire un nuovo disco, vero Fabiana? Tu sì, mi esattamente, tra poco, non con nome Molteni, assolutamente no. Peccato perché è un grande... Poi me la ricordo benissimo quella sera perché abbiamo suonato io, Reddy e il pianista, e mi ricordo che nella band era un trio Molteni, quella sera c'era Pipitone dei Marta sui tubi che accompagnava le chitarre ed era spettacolare. Che doveva andare a Sanremo, lo sai? È vero, sì. Con Anna Oxen, è saltato tutto, purtroppo. Peccato. Però potevano farli suonare lo stesso. Lo so, anche senza Anna Oxen. Pensavo anche gli esclusi potevano a sto punto. Io avrei avuto piacere di vedere anche Morgan, certo, sinceramente. Certamente. Devo essere sincera, poi non lo so, l'avrei visto bene con la Patti. Sì, secondo me. Il pezzo della Patti non era un brutto pezzo, e probabilmente la Patti non l'ha cantata in modo un po' particolare. Ma con lui, secondo me. Esattamente. Sì, ci stava. Beh, ogni tanto passa in radio comunque. Sì, dai. Sì, assolutamente. Però, peccato. Agostino, cosa dici? Live. Io so che sono cattivo, però se facciamo velocemente, facciamo in tempo ad ascoltare ancora un paio di canzoni. Una adesso, subito. Poi ci salutiamo. Diciamo le ultime cose e ci fai l'ultima canzone dal vivo e poi lasciamo lo spazio ad Alberto Prisco e la sua musica rock e la sua classifica. Okay. Che dici? Sì, siamo qui per questo, perché facciamo due pezzi, il primo è Isola e poi finiamo con La Condizione Generale, che è il pezzo che amiamo proporre nel finale. È grintoso. Grintoso. No? Okay. Quindi se prima ho dato qualcosa, ora vi distruggo lo studio. Bene, ci distruggiamo. Ti ho vista arrivare, toccare la mia sponda, per poi naufragare. C'era buio, c'era ombra, che gran vergogna, scusami. Ho visto macchie tutto attorno, sanguinava il mio contorno, oh sì. C'era poi il mare anche di sfondo, che bella lirica, ma sai che c'è? C'è che mi sono perso in me, oh, sai che c'è? Poi anche la mare, brezza e solitudine, fecer compagnia. All'orizzonte un'anima, un profilo incerto, forse vanità. Mi sollevò il grigio del mondo, delirava il mio subconscio. Oh sì, vedevo fiori nella sabbia, aria limpida, ma sai che c'è? C'è che mi sono perso in me, oh, sai che c'è? Tornare lì, voglio tornare lì, potrei morire qui, voglio tornare lì, ma sai che c'è? C'è che mi sono perso in me, oh, sai che c'è? Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. È un grande pezzo pop, secondo me, questo. Non so se sei d'accordo, Fabiana. Un sì, bel ritornello decisamente pop. Bravi. Bel intreccio di voci. Sì. Perfetto, perfetto. Un ottimo, anche questo è un ottimo singolo. Ah, sì. Dov'è il produttore? È un ottimo singolo anche questo, cosa dici? E poi ne abbiamo da fare. Appunto, dicevo io. A proposito, una cosa velocissima. Dove si può acquistare e trovare il vostro EP? L'EP si troverà a breve, a brevissimo, su iTunes, sui negozi digitali. Perfetto. Per quello fisico dovete muovere il sedere e venire ai concerti a trovarlo. Ottimo, ottimo, benissimo. Ecco, è una cosa che bisognava dire, assolutamente. Certo. Comunque, volevo precisare che come Lemon Records abbiamo intenzione di uscire col primo vero album con la coerenza artistica che contraddistingue Alessandro verso Natale, gennaio prossimo. Quindi stiamo già lavorando ai pezzi, stiamo già arrangiando i pezzi nuovi, questo lo già consideriamo materiale vecchio. Sarà il regalo di Natale, lo troveremo tutti sotto l'albero. Bene, bene, bene. E noi ti aspettiamo qui a presentarlo. Sì. Certo. Con Fabiana. Allora, siamo ai saluti finali, sono le 22:26, dobbiamo lasciare lo spazio ad Alberto Prisco. Io che dire, vi ringrazio di essere venuti qui a trovarci in radio e di aver proposto la vostra musica. Grazie, Alessandro, grazie veramente della tua disponibilità. Ringrazio Edoardo che ci siamo scambiati un sacco di messaggi, mail in questi giorni. Che dire, ringrazio anche Redi, Micheletto, Francesco. Grazie. Ricci, grazie a tutti, e Marco Mariuz che è qui dietro in regia con me, con Edoardo Pellizzari, il produttore. Ringrazio la Chiara che ha curato le telecamere e le webcam, chiedo scusa, e le foto. E Maurizio, un bacio glielo diamo alla Fabiana. Certamente, anche facciamo un invito per le prossime Blu Radio Sera dal vivo, è sempre, può essere un appoggio notevolissimo con la Fabiana come ospite. Cosa dici, Alessandro? Grazie. Agostino. È un invito? Grazie. È una grazie. Promessa, vieni? Farò il possibile. Allora, io vi do appuntamento domani sera alle 22.15 dopo la pallavolo con il chitarrista Luca Francioso, che verrà a presentarsi il suo ultimo disco. E che dire, vi saluto, vi auguro un buon proseguimento all'ascolto dei programmi con Alberto Prisco. Ciao Maurizio. Ciao Agostino. Ciao a tutti, grazie ancora. Cosa ci fai ascoltare per salutare? Facciamo La Condizione Generale, un pezzo allegro, bello fresco. Ok, allora ciao a tutti e appuntamento alla prossima, al prossimo live. Ciao ciao. Condizione generale del suo stato emozionale è sempre uguale, anche se pare un po' superficiale. Giorni spesi a recuperare un sorriso mai banale, una carezza lasciata e persa, un gemito fenomenale, un gemito fenomenale. Sola sera lei coglieva il meglio di una sbocciata primavera. Con le mani toccava il cielo e con un dito poi creava. Una voce le sussurrava di librarsi a mo' di ala, per vedere se da lontano il destino le tendeva la mano. Il destino le tendeva la mano. E poi si schianta come una farfalla in volo libero contro un girasole. E poi si schianta come una farfalla in volo libero. Così reale la visione della sua bocca in movimento, sempre costante era il lamento, mentre cantavo sospirava. Quando poi arrivò il tremore, figlio di un passato amore, le tiro fuori le parole, senza pensare a non far rumore. E poi si schianta come una farfalla in volo libero contro un girasole. E poi si schianta come una farfalla in volo libero. Grazie e buonanotte a tutti. Blu Radio Veneto.